Ma quando questa crisi avrà termine, se un giorno avrà termine, cosa di cui non siamo sicurissimi, quando questa crisi avrà termine, si sarà lasciata alle spalle molti cadaveri. Speriamo che si tratti solo di cadaveri prevalentemente metaforici, no? Di cadaveri reali. Fra questi cadaveri, uno dei più illustri sarà l'attuale paradigma storiografico, il paradigma storicista. Cos'è stata la crisi e cos'è stata la globalizzazione? La crisi è stata quello che ha svelato in qualche modo la globalizzazione, il modello che c'è di ordine mondiale tentato dalla globalizzazione. E sono emerse tutte le debolezze di questo modello, tutti i punti di crisi di questa architettura del potere mondiale. E uno dei motivi per cui non riusciamo a uscirne è proprio il fatto che non è in discussione l'architettura che ha messo le premesse di questa crisi. Si cerca in tutti i modi di riparare qua e là il pilastro che si è lesionato o la parete che è venuta giù. In realtà il problema è che non regge proprio la costruzione. Ma la costruzione a sua volta cos'era? La globalizzazione cos'era? Era il progetto di estendere, chiedo scusa ai pochi studenti del mio corso che sono qui, che probabilmente qualcosa già l'hanno sentita e in qualche modo sentiranno ripetersela, ma il progetto è stato quello di proiettare la modernizzazione, la modernità occidentale al resto del mondo. C'è una coppia concettuale assolutamente inscindibile che è quella di modernità e Occidente. L'Occidente è la modernità per eccellenza. E quindi, di conseguenza, in una filosofia della storia tutta storicista, che immagina un tempo direzionale rettilineo lungo una sola dimensione, esistono paesi che sono più avanti e paesi che sono più indietro. E infatti il linguaggio parlava di paesi avanzati, che erano i paesi dell'Occidente, e di paesi arretrati, che erano quelli del resto del mondo, i paesi del sud del mondo, per cui il resto del mondo era interpretato, vissuto come una sorta di Occidente imperfetto, che doveva alzare il passo per raggiungere l'Occidente. E questo esplicito debito nei confronti dello storicismo come progetto emerge in uno dei manifesti della globalizzazione, che è il testo di Francis Fukuyama, L'ultimo uomo è la fine della storia. La storia è finita perché ha raggiunto il suo obiettivo. Lo storicismo ha in sé l'idea non solo di una logica della storia che si muove, ma si muove verso un risultato, verso un obiettivo da raggiungere. Dice Fukuyama, se dal punto di vista lui riprende esplicitamente le tesi di Hegel, attraverso la lettura che ne fa Kojève, se dal punto di vista dello sviluppo tecnologico e del controllo della natura, ci sarà ancora una storia, l'uomo potrà ancora scoprire altro e andare avanti. Dal punto di vista dell'involucro sociale, della struttura sociale, del modello di convivenza, abbiamo raggiunto il livello che poteva essere raggiunto. Nella lotta per il riconoscimento, come lo definisce Hegel, abbiamo toccato il punto più alto. Un po' l'equivalente di quello che dice il peak oil per quanto riguarda l'estrazione del petrolio. Abbiamo toccato il peak oil della storia. Dunque, non resta che la modernizzazione e l'occidentalizzazione del mondo. La crisi è arrivata a svelarci la fragilità di questo modello, la fragilità di questo processo di globalizzazione come modernizzazione planetaria, come occidentalizzazione planetaria. Di conseguenza, quell'idea stessa di globalizzazione e di modernità che era contenuta nella globalizzazione ci ritorna addosso come un boomerang, e e ci costringe a guardarci indietro e a riprendere in considerazione tutto il modo di definire la nostra storia, la suddivisione temporale che voi avete avuto a scuola. C'è un evo antico, poi c'è un evo moderno e in mezzo, appunto, c'è l'età di mezzo, il medioevo. Era stata pensata come una formula mondiale, come una descrizione del tempo della storia del mondo. Peccato che sia assolutamente inapplicabile ad altri contesti. A provare ad applicare questa cosa viene fuori che la Cina ha un medioevo che è durato 4.000 anni, che non appare molto realistico. Viene fuori che, per esempio, ma la Cina ha mai avuto un'epoca antica intesa come schiavismo? Il mondo dell'Islam ha mai conosciuto epoche precedenti e soprattutto quando è iniziata la modernità? Con Kemal Atatürk e tutto il resto cos'è stato? E viene fuori l'idea di un eterno medioevo le cui tenebre sono state lacerate soltanto in Europa e dopo esportate nel Nord America e poi man mano nel resto del mondo. La prima cosa che ci viene addosso è il fatto di capire quanto sia sottile lo strato della nostra modernità. Sì, è vero che la nostra modernità affonda le sue radici abbastanza indietro nel tempo. Se vogliamo, il primo a parlare di modernità è stato Petrarca, quindi saliamo al 300. Però guardate, il 300 sono soltanto, ormai direi 6 secoli più che 7, noi abbiamo appena iniziato il XXI secolo. E 7 secoli sul piano della storia sono un tempo assolutamente ridicolo, soprattutto se ci misuriamo con grandi civiltà passate come possono essere la Cina o l'India. Ci siamo ritagliati e messi addosso molte cose che in realtà non erano proprio nostre. A questo proposito vi consiglio un libro molto bello, Il furto della storia di Goody. Scusate, ma qua devo spegnere, se no. Il furto della storia di Goody, che vi spiega come molte cose che l'Occidente, l'Europa in particolare, pensa di aver avuto per sé, di aver inventato, in realtà hanno avuto in forme diverse altri inventori. Ora, questa visione della storia antica, medievale, moderna è in realtà il racconto, preferisco evitare l'espressione narrazione, troppo abusato, è il racconto dell'espansione, della proiezione dell'Europa nel mondo. Non è applicabile ad altri contesti. È una pagina della storia mondiale, non è la storia mondiale. Pertanto, le idee stesse che essa contiene sono idee da relativizzare nel tempo e nello spazio. E lo stesso schema storiografico che le ha prodotte risulta ampiamente smentito proprio dagli eventi in corso. Perciò, per la verità, lo storicismo in quanto tale è in crisi da un po' più di un secolo, tutto sommato, ha iniziato ad avere una sua crisi. Ma adesso il problema investe proprio le fondamenta del ragionamento. Pensiamo a una cosa. Pensiamo per esempio alla figura retorica principale del discorso storicista. Il discorso storicista si basa su alcuni postulati. Uno, che la storia abbia una sua logica interna, che abbia un suo fine verso cui si dirige, che il faro ispiratore è il giudizio morale e in qualche modo ha una sua metodologia propria, per esempio la priorità della storia politica rispetto alle altre storie, per esempio il ricorso a un tipo di argomentazione che ha nell'analogia la sua figura retorica principale. Sì, lo storicismo sa che ogni evento storico è irripetibile, Però postula l'idea che possa somigliarne a un altro e che quindi in qualche modo la conoscenza del precedente possa orientare le scelte successive. E noi cerchiamo ogni volta di vedere in quel che accade la ripetizione di qualcosa che è già accaduto. Ogni qualvolta c'è un movimento studentesco, un movimento giovanile di protesta, ci chiediamo se un nuovo 68. Ogni volta che c'è una crisi economica, ed è accaduto anche questa volta, ci chiediamo se non sia un nuovo 29, se non siamo di fronte a una nuova guerra mondiale. Ma in realtà il 2008, l'onda, non è stato un nuovo 68, è stato il 2008. E la crisi del 2008 non è stata la crisi del 29, è stata la crisi del 2008. Questo non significa che non esistano somiglianze, significa un'altra cosa, che l'analogia come discorso, come metodo, come risorsa retorica, è ormai una risorsa logorata, non riesce a raggiungere il risultato che si prefigge, la comprensione dell'avvenimento storico da considerare. Partiamo proprio dalle analogie fra 2008 e 1929. Si sono sprecati i fili d'inchiostro. Appena iniziata la crisi, il discorso è stato: bisogna evitare un nuovo 29, perché un nuovo 29 porterebbe a una nuova grande depressione, e una nuova grande depressione troverebbe il suo sbocco in un nuovo conflitto generalizzato, in una nuova guerra mondiale. Bene, quando poi il presidente Obama, sulla base di quella lezione per cui la crisi del 29 perché degenerò? Degenerò per il colpo di freno che venne imposto nel momento in cui l'economia lanciata a tutta velocità inciampava, con il risultato che il colpo di freno ha fatto capottare l'auto. Bene, bisogna evitarlo. Qual è il rimedio? Massima liquidità. Che cosa fece la crisi? Cosa si fece nella crisi del 29? Si alzarono le barriere doganali, si fece del protezionismo nazionale. Dobbiamo evitarlo, dobbiamo insistere con la globalizzazione e la libera circolazione di merci e capitali per il mondo. Dopodiché, alla prima schiarita che ci fu nella seconda metà del 2009, tutti gritarono esultanti alla fine della crisi, che come potete vedere non è finita. E davanti ai giornalisti che chiedevano conto a Obama del perché di nuovo si stesse profilando una crisi occupazionale negli Stati Uniti, Obama risponderà: ma ho evitato un nuovo 29. Perfetto esempio di cultura storicista analogica. La verità è che in realtà questa crisi presenta aspetti di somiglianza con il 29, ma presenta anche molti aspetti di dissomiglianza. E qui già capite che il vecchio modello storiografico, fondamentalmente analogico, non serve più a capire il presente, perché l'analogia deve essere sostituita dalla comparazione. L'analogia cerca la similitudine, cerca il caso simile per spiegare il caso in questione. La comparazione cerca, tanto per cominciare, non il caso o i due casi simili, ma cerca una pluralità di casi in cui studiare similitudini e dissimilitudini e differenze. Perché solo attraverso questo studio di somiglianze e di differenze che è possibile ricavare indicazioni utili a comprendere le dinamiche del presente, a ricavare delle regolarità di carattere storico. Guardate, regolarità e regole non sono esattamente la stessa cosa, anche se i due concetti sono imparentati tra loro. La comparazione che cosa ci dice? Ci dice che sicuramente c'è stata una crisi che è partita come crisi finanziaria e si va man mano trasmettendo, anzi ormai è abbastanza passata l'economia reale, la crisi finanziaria sta diventando crisi economica. Però, e ci sono anche altre similitudini che possiamo cogliere, il problema del debito pubblico, anche se, attenzione, mai nelle dimensioni che sta conoscendo l'attuale situazione mondiale, mai ci sono stati tanti debiti nel mondo. Il problema però è questo, che se ci sono tanti debiti vuol dire che ci sono tanti crediti. Debito e credito sono due facce di una stessa medaglia. Se c'è un debitore c'è un creditore. Se io ho il debito con qualcuno che ha il credito. E quindi che significa questo fatto che nel mondo oggi noi abbiamo questa immensa massa di partite di crediti e di debiti di cui gran parte poi si compensano fra di loro? 2 anni fa, e quindi nel frattempo abbiamo rinunciato a fare il conto, si considerò che i titoli finanziari sono per eccellenza titoli di debito e di credito. Se io emetto una cambiale, e per me è un titolo di debito, per lui che mi ha fatto il prestito è un titolo di credito, per lui che ce l'ha in mano è un titolo di credito. Si considerò che i titoli finanziari assommassero a qualcosa come 820.000 miliardi di dollari. Se tenete presente che il prodotto lordo mondiale di 74 in quell'anno era di 74.000 miliardi di dollari, e ricavate che la massa monetaria, la massa di titoli finanziari è l'equivalente di 11 volte il prodotto lordo mondiale. Sì, questi titoli in gran parte si compensano, è vero, perché io ho titoli di debito suoi e quindi sono suo creditore, però sono debitore suo che a sua volta è debitore della signorina che a sua volta è debitrice nei confronti suoi. Poi alla fine facciamo il conto del pari e dispari, ma insomma. Però per quanto essi possano compensarsi, e tenete presente una cosa, che sto parlando dei debiti senza parlare della massa del circolante della valuta. E anche la valuta, ragazzi, è debito, è credito per chi lo ha, ma è debito per chi lo emette. Un tempo, quando questo era regolato dalle riserve auree delle banche centrali, sulle banconote c'era scritta pagabili a vista al portatore 1.000 lire oro. 1.000 lire era l'equivalente di 1.000 libbre d'oro, ma ovviamente sto parlando, in realtà nessuno vi avrebbe cambiato niente, vi avrebbe dato una sola pagliuzza d'oro, anzi probabilmente vi avrebbero guardati anche con qualche diffidenza, però insomma. Però teoricamente l'idea era, io ho emesso un mezzo di pagamento garantito dall'oro che ho. Dopo, con la decisione del presidente Nixon del 1971, che dichiarava non convertibile il dollaro in oro, cioè in altri termini, se andate alla Fed a presentare i dollari non vi diamo oro, è iniziata l'epoca della fiat money, cioè del denaro che esiste solo perché viene enunciato come tale. Questo però non significa che il denaro non sia un debito, esattamente come prima il denaro, la banconota era il titolo di debito di uno Stato che garantiva con l'oro, che doveva essere la contropartita. Oggi questo non c'è, però c'è un'altra cosa, c'è la funzione di equivalenza delle valute fra di loro. E quindi in qualche modo qualcuno deve pur garantire che quel biglietto di carta che avete in tasca non è un Kleenex con cui soffiarsi il naso. E quindi in qualche modo qualcuno che ha emesso quel titolo, anche se in forme diverse dal passato, resta un debitore. Allora, se io considero tutto questo, considero la massa del valutario e considero tutto il resto, mi rendo conto che noi abbiamo emesso titoli molto superiori alla ricchezza reale esistente e prodotta. Certo, esiste il patrimonio già prodotto, per cui per esempio lo Stato italiano pensa di risolvere il suo disavanzo alienando dei beni pubblici. Ora, a parte il fatto che però quando li vendi tutti insieme non li vendi ma li svendi, resta il problema di una massa molto superiore ai valori. E qui si pone un problema che si è preannunciato nel 29, ma che qui diventa invece non una cosa vagamente accennata, ma si impone come prepotenza. La crisi del denaro, la crisi della forma denaro. Ed è la prima cosa che uno storico dell'oggi deve capire come specificità della crisi attuale. Il denaro cos'è? Il denaro è qualcosa che ha tre funzioni. Ha la funzione di equivalente generale, per cui noi possiamo acquistare questo orologio, vendere questo telefonino, non facendo il baratto come avrebbero fatto in società primitive, ma trasformando questo in denaro che a sua volta viene usato per comprare questo. Quindi attraverso un sistema di eguaglianze. È l'equivalente generale, ma già l'equivalente generale vi fa capire una cosa, che il denaro non è la ricchezza in sé, ma è il simbolo della ricchezza. La ricchezza è questa, eh? Sono le merci, sono i beni. Il denaro ne è solo la rappresentazione. Se non ci sono i beni, il denaro resta soltanto un pezzo di carta, colorato, talvolta anche carino dal punto di vista estetico, ma insomma scarsamente utile. La seconda funzione del denaro, strettamente connesso, è di unità di conto. E beh, noi vogliamo capire qual è l'economia di un paese, qual è l'economia di un'azienda, eccetera, cioè abbiamo bisogno di un indicatore numerico. Quanto è ricca questa azienda? Cosa c'ha questa azienda? C'ha un magazzino in cui ci sono tot prosciutti, tot, poi c'ha 25 stabili, sì vabbè, ma tutto questo equivale a, e lì c'è la funzione del denaro, unità di conto, attraverso la sua funzione di equivalente generale, che è quella che permette appunto gli scambi e la fotografia della situazione economica. Ma poi c'è un'altra funzione del denaro, che è quella che ha conosciuto uno sviluppo ipertrofico. Riserva di valore. Io ti pago per un tuo lavoro, tu decidi non spenderti tutto quello che ti ho dato subito, decidi di tenere da parte qualcosa, perché vuoi risparmiare un po' alla volta e comprarti una casa, vuoi sposarti, vuoi avviare un negozio, vuoi mettere da parte i soldi per le vacanze. E allora il denaro è la riserva di valore, è il valore che tu hai acquisito e ti riservi di spendere in un altro momento. Ma la riserva di valore a sua volta implica un'altra cosa, implica l'idea di guadagno sul denaro. Guardate che questo ormai ci è entrato profondamente nella testa a tutti quanti. L'idea che se noi depositiamo, nessuno di noi ha il denaro sotto il mattone, oddio ormai non ce l'ha neanche sopra, ma insomma, tutto sommato, quando qualche lira c'hai, qualche euro, non lo tieni sotto il mattone, lo depositi alla posta, in banca. E l'idea è, soprattutto se gli euro non sono proprio pochini, non li metti sul conto corrente, compri qualche titolo, qualcosa che ti dà un interesse. E voi scegliete la banca, mi sa molto pochi di voi, scegliete la banca sulla base dell'interesse migliore che vi fanno. E così magari il passo successivo qual è? Quello di chi ha ereditato una certa somma da papà, magari anche piuttosto generosa, che pensa di investire in titoli che gli daranno interessi con cui vivere di rendita per tutta la vita, senza bisogno di lavorare, perché il lavoro, il denaro lavora per lui. Qual è la filosofia? Tu vuoi avviare un'impresa commerciale, ma non hai soldi. Io te li do, tu fai quello che devi fare, dopodiché quando hai guadagnato mi ridai i soldi che ti ho dato e mi dai anche qualcosa, un interesse per pagare il servizio al credito. Questa è l'idea. Di qui si sviluppa l'idea che il denaro di per sé produca ricchezza. La riserva di valore produce valore. Produce valore ulteriore. Qui il discorso comincia a diventare a gonfiarsi su se stesso. Marx diceva che nella società, diciamo, tradizionale, il rapporto è merce-denaro-merce. Io ho la merce, la vendo, realizzo il denaro con cui compro altra merce, no? Nella società capitalistica, dice Marx, il rapporto si inverte e diventa denaro-merce-denaro. Il denaro viene investito nella merce, rende altro denaro di uno, che viene nuovamente investito in merce M2 e produce D3, denaro 3. Noi, nella società ipercapitalistica dei nostri anni, abbiamo inventato una cosa. Abbiamo inventato la commercializzazione perfetta del credito e quindi del debito. Il titolo finanziario di debito, guardate che quando parlo di titoli di debito, parlo di qualsiasi cosa, parlo della cambiale, parlo delle azioni, parlo di un contratto future sul petrolio, parlo del denaro in tutte le sue forme, sia chiaro questo concetto. Allora, che succede? Che noi abbiamo sostanzialmente fatto passare il criterio della commercializzazione del debito, la cui filosofia interna è che io garantisco il mio debito col debito di un altro. Allora, che succede? Veniamo all'esempio dei mutui subprime. I cosiddetti mutui subprime, che cos'era? Erano questo. Noi abbiamo una serie di clienti. Attraverso dei modelli matematici molto sofisticati, noi siamo in grado di stabilire quale percentuale di clienti non pagherà il suo debito. Sappiamo da adesso che il 3% non pagherà. Ovviamente non sappiamo chi sono quei 3 su 100, però sappiamo che il 3% non pagherà. Va bene, nessun problema, si fa così. Noi facciamo più credito possibile, perché più vasta è la base, più è certo il livello di approssimazione matematica. Cioè, se io ho solo 100 debitori, sì, è vero che la media è il 3%, però guarda caso possono essere 0 ad Elio che sta lì in fondo e 6 a me, dopodiché io finisco in fallimento. Ma se io ne ho 100.000, è piuttosto difficile che possa crescere o diminuire di molto la massa di insolventi. Quindi noi acquisiamo la base più larga possibile. Dopodiché la cosa geniale è questa. Prendiamo tutti questi mutui, li vendiamo a una società. Manco a dirlo, ragazzi, non è una società fittizia, è una mia parallela. Io ho la banca, mi costruisco una società fittizia che compra da me tutti i miei mutui. Ed emette una serie di titoli di debito suo, acquistato dai clienti, a un determinato interesse. Quindi in realtà che cosa succede? Che tutti i mutui che noi abbiamo fatto vengono inscatolati e fatti a spezzatino. Abbiamo fatto un prodotto salsiccia, per cui in qualsiasi titolo che ciascuno di voi compra da quella società finanziaria, c'è un pezzettino di mutuo di tutti quei mutui. Questo è il prodotto salsiccia, è chiaro? In questa maniera l'idea geniale è: noi basta che aumentiamo del 3% il costo dei miei mutui e ci siamo ripagati automaticamente quelli che non pagheranno. Non solo, ma la cosa più geniale di tutte è che noi non dobbiamo aspettare 20 anni che questo ci restituisca i soldi. Noi realizziamo subito vendendo questi alla società ombra parallela, che a sua volta li vende ai clienti. Noi il capitale lo recuperiamo subito e con esso anche gli interessi. Non dobbiamo aspettare 20 anni, è già rientrato, possiamo riprestarlo. Tutto questo porta a un uso esasperato della cosiddetta leva finanziaria, il leverage buyout. Dunque, che cos'è la leva finanziaria? La banca, voi sapete, che presta a lungo termine, il mutuo, il prestito all'azienda, difficilmente sono prestiti sotto i 10-20 anni, però contrae debiti con i suoi correntisti a breve e medio termine. Tu vieni, mi depositi i soldi, in ogni momento li puoi riprendere, però naturalmente non tutti i miei correntisti ritireranno i soldi lo stesso giorno, che diavolo. Per cui, nel caso, mi rivolgerò alla banca vicina, al prestito interbancario, e mi darà di che far fronte nell'immediato sulla liquidità. In ogni caso, a garantite ci sono le mie proprietà di banca, il cosiddetto asset bancario, oro, immobili, preziosi, valuta pregiata, eccetera, eccetera. Quindi, quello è l'asset. In un'economia sana si ritiene che il rapporto fra l'asset e la leva, e quello che io presto, ottimale sarebbe una 6, però oddio, è sopportabile anche una 12, dai. Noi siamo arrivati nel 2008, e non era mai successo prima, a una leva media di 1,60 e in alcuni casi era 1,300. Cioè, non so se avete capito, non c'era più una garanzia, perché tutto era affidato al mercato continuo del titolo finanziario, al fatto che io vendo i miei crediti, quindi vendo il debito di un altro a te. Il guaio è quando, per una ragione o per l'altra, e poi magari ne discuteremo, gli insolventi non sono più il 3%, cominciano ad essere troppi. E sapete perché? È perché succede una cosa che talvolta è una stessa azione che mette in moto la reazione che la stronca, che la blocca. Questo mercato dei mutui così facile, per cui c'è stata una grande domanda di case da parte di soggetti, il tutto era proposto come la democratizzazione della finanza, la finanza a tutti, anche a quelli che non pagheranno mai. C'era una bellissima vignetta di Altan nel 2008 che ritraeva un signore che stava andando in banca evidentemente e parla col direttore di una filiale e gli dice: senta, io vorrei un mutuo che però non pagherò mai. E il direttore gli risponde: lei è un genio della finanza. La filosofia dei mutui subprime è stata drammaticamente questo. Il risultato qual è stato? I mutui subprime hanno messo insieme in moto un meccanismo di rivalutazione, di aumento degli immobili assolutamente folle. Questo l'abbiamo avuto anche a Milano. È stato un periodo in cui, e tuttora, le costruzioni a Milano, gli immobili a Milano costano troppo, non valgono quello che costano, perché ancora una volta il discorso è l'aspettativa di guadagno. Guardate, l'economia finanziaria non è un'economia reale, è un'economia di aspettative. Allora, il risultato qual è? Nel momento in cui c'è una domanda di case del genere, il prezzo delle case aumenta. Risultato, conviene investire nelle case. E certo, perché tu compri la casa a 100, ma già la settimana dopo sarà diventata 100,5 e fra 6 mesi sarà 102 e fra un anno sarà 106. Il risultato è che siamo arrivati alla situazione in cui, soprattutto negli Stati Uniti, una casa era comperata sino a 23 volte prima di essere costruita. Noi compravamo e vendevamo questa casa prima che fosse costruita 23 volte. In questa maniera il costo di qua, naturalmente, che significa? A ogni passaggio successivo costava di più. Perché nessuno compra a 10 per vendere a 9. Se io compro a 10, vendo perché vendo a 11. E quello che compra a 11 poi venderà a 12. Quindi il meccanismo diventa questo. Però a un certo punto che cosa è successo? È il classico meccanismo delle bolle. La prima crisi finanziaria ci fu in Olanda nel 600, la crisi dei tulipani. A un certo punto i bulbi di tulipano acquisirono un apprezzamento molto forte, in gran parte perché si conservavano a lungo, cioè poi una pianta rara, quindi in quanto tale, comprare bulbi di tulipano significava comprare qualcosa che aveva un valore, che si poteva rivendere a un valore maggiorato e così via. Destino di tutte le bolle è quello di esplodere, cioè a un certo punto ci si rende conto che i bulbi, ancorché di una pianta preziosa, di un fiore, cioè, è pur sempre una cipolla. E ormai la stiamo valutando troppo. Quando succede quello è il crack, perché il prezzo precipita e chi ha investito in quel bene pagandolo una certa cifra rimane col cerino in mano. Nel caso dei mutui subprime la storia è stata ancora più perfida, perché a un certo punto le banche, siccome la cosa si apprezzava, arrivavano non solo a dare il 105% del valore della casa, ma che cosa facevano? Sapevano perfettamente che quello non avrebbe mai pagato il mutuo. Si prendevano le prime rate, dopodiché, quando il debitore non poteva più far fronte al suo debito, negli Stati Uniti non è come in Europa, dove la giurisprudenza è molto cauta nel buttar fuori la gente di casa. Negli Stati Uniti, cotto e mangiato, se non paghi le prime rate sei buttato fuori. E a quel punto la banca rientrava in possesso di un bene che nel frattempo si era rivalutato, si era apprezzato. E quindi a quel punto era conveniente, perché tu avevi fatto 105.000 dollari di prestito, ti eri fregato i primi 6-7.000 dollari di rate pagate, e in più entravi in possesso di un bene che ormai ne valeva 140.000. Guadagno puro. Il guaio è che a un certo punto la gente si è fatta i conti e ha pensato: ma scusami, le case, io questa casa devo pagare ancora 119.000 euro, perché ho avuto 105.000 euro, però gli interessi eccetera eccetera, poniamo ne devo pagare 120.000. Una casa come questa quanto costa oggi? E oggi sono scese di valore 90.000. Ah, 90.000, e devo darne lì 120.000. Se la pigliassero, mi compro un'altra casa. A quel punto la cascata, la caduta verticale dei prezzi degli immobili è stata una valanga che non è stato possibile arrestare. E improvvisamente, appunto, le banche sono restate col cerino in mano. Ecco il perché dei fallimenti del 2008, in particolare della Lehman Brothers, che non ce la farà a salvarsi. Ecco, questo è un aspetto diverso dalla crisi del 29. Non è il 29, è un'altra cosa, perché qui siamo proprio non più alla produzione di denaro a mezzo merce, DMD. Qui siamo alla produzione di denaro a mezzo denaro. Il denaro non ha mai toccato lo stadio di merce. Stiamo semplicemente comprando e vendendo in continuazione titoli finanziari, giocando sugli interessi. Il risultato qual è? Che a questo punto si crea un'unica immensa bolla, che non è più la bolla degli immobili, dell'oro, dell'argento, dei tulipani o delle cipolle, è la bolla del denaro, è il denaro che cresce su se stesso. E questo ci mette in presenza di quello che io vi ho detto all'inizio, la crisi della forma denaro. Il denaro ormai è diventato un pochino come l'homunculus della tragedia di Faust, è l'homunculus che ci trascina nella notte di Valpurga. È qualcosa che è sfuggita al nostro controllo e che ci sta trascinando in una situazione di totale ingovernabilità e di pericolo. E non è un caso che la reazione qual è? La reazione è la fuga dal denaro. Chi ha la possibilità commercia ormai in compensazione. Ormai il 20% del commercio mondiale avviene in compensazione, senza mediazione di denaro, solo con un denaro virtuale in quanto unità di conto. Ma denaro in quanto denaro spesso ci cerca di evitarlo. È il caso delle monete locali che stanno sorgendo. È il caso di altri meccanismi, in fondo di cambio in natura, di prestazione di lavoro in cambio di merce. Come credete che facciano i greci a vivere dopo questa crisi? Denaro non ce n'è più. Ormai vivono in due maniere, o con prestazioni di lavoro immediatamente pagate non in denaro, ma in merce, in genere alimentari, oppure vivono di cambiali che girano, le cambiali che noi qui in Italia siamo scordati cosa sono. Ma comunque noi le facevamo per gli elettrodomestici, insomma per cose di questo tipo, per la macchina. Ecco, lì le cambiali si fanno per comprare dal fruttivendolo qualche chilo di frutto o di verdura, che viene poi rigirata dal fruttivendolo al contadino che le rigirerà al calzolaio, eccetera, eccetera. Tutto questo ha creato una massa impressionante di queste cambiali, il cui totale valore tutti ignorano, quindi quando verranno poi al pettine sarà un altro problema. Ma comunque, ecco, comincia a profilarsi, il denaro ormai non produce più, non stimola più la produzione. Siamo in quello che l'economista Minsky descriveva come trappola della liquidità. Cioè arriva il momento in cui il denaro viene prestato a zero interesse, cioè ormai siamo alla Fed che presta il denaro allo 0,5, 0,4, addirittura si parla dello zero in prospettiva, dopodiché più di quello non puoi fare, cioè più di dire ti do soldi senza interessi. E però vedete che non si trasforma in finanziamento alla produzione e al consumo. Le banche prendono il denaro dalle banche centrali allo 0,5% di interesse, ma lo prestano per i mutui all'11%, lo prestano alle aziende al 7-8%. E cosa fanno del denaro che hanno avuto in prestito? Lo reinvestono in altri titoli finanziari. E il denaro comincia a circolare esclusivamente all'interno dei mercati finanziari. Perché? Perché ormai non c'è più fiducia nell'investimento, non c'è un investimento che tu sei sicuro. Non solo, ma se noi abbiamo creato la formula, la shareholder value, cioè della creazione di valore per cui l'investimento deve rendere almeno il 15% all'anno. Voi mi sapete dire quale investimento nell'economia reale può rendere il 15% all'anno dal primo anno? Forse l'intervento alla Madonna di Lourdes, non lo so, cioè, ma non esiste un affare pulito. Non esiste un affare pulito che renda il 15% all'anno. E quindi che succede? Che ovviamente il denaro verrà reinvestito nel denaro, ma non diventerà mai attività economica reale, non diventerà più. Questo è un meccanismo tipico di questa crisi. Qui siamo di fronte, molto più che nella crisi del 29, siamo di fronte alla trappola della liquidità, siamo a una trappola della liquidità al quadrato, per la quale anche i cinesi si stanno arrendendo perché non sanno più come far fronte, anche loro emettono dalla banca centrale flussi di liquidità, ma ormai anche lì la produzione industriale sta crollando, l'economia reale batte il passo, segna il passo. Perché? Perché non è più remunerativa. E questo... E perché allora cioè, i governi non tassano, non invertono la tassazione sul lavoro, sulla produzione e quella sulla rendita finanziaria? Perché nel frattempo, hai fatto il capolavoro della libera circolazione dei capitali, per cui i capitali stanno nei paradisi fiscali, e arrivi alla follia per la quale la virtuosa Olanda rimprovera la cicala portoghese di spendere più di quanto non guadagna. Però c'è un problema, che la virtuosa Olanda offre una tassazione dell'8% sui titoli, per cui tutte le maggiori società olandesi sono emigrate in Olanda e non pagano le tasse alla cicala portoghese, pagano le tasse alla formica, al vampiro olandese, e il Portogallo non può tentare di fare, dice vabbè, e tu fai la tassazione del 7%, no, non può farla, perché per il patto di stabilità europeo, per il fiscal compact, non può in queste condizioni diminuire le tasse, e quindi non rivedrà mai più quei capitali. E qui stiamo parlando dell'Unione Europea, quindi all'interno, figurati. E quando io dicevo è l'architettura del sistema che sta tremando, però noi continuiamo a decidere, che forse però verde è un po' bruttino, se ci diamo una mano di giallo che viene più vivace, ma nel frattempo sta andando giù il pavimento. Ecco, la nostra situazione è questa. E questa è già una prima specificità dei meccanismi finanziari ed economici di questa crisi. Cioè, ce ne sono poi altre due. Uno, c'è una cosa che noi nel 29 non avevamo, l'esplosione demografica. Siamo di fronte a un'esplosione demografica che si riflette già oggi in qualcosa di molto delicato, come il prezzo delle materie prime alimentari. Quando scoppiò la primavera araba e si temette sul prezzo del petrolio, ci fu una riunione, la riunione annuale a Davos, di lor signori banchieri e i maggiori, il senato della finanza mondiale, la creme. A un certo punto uno chiese a uno dei convenuti, eravamo al gennaio del 2011, quindi ancora in piena euforia di la crisi è finita, e allora chiesero a un banchiere, dice senti ma la crisi è finita o no? Il banchiere rispose, ma sì, la crisi sta finendo, ma non siamo pronti a shock esterni come potrebbe essere l'aumento del prezzo del petrolio indotto dalle rivolte arabe. L'imbecille non aveva capito che non era uno shock esterno, era un boomerang che gli stava tornando indietro. Tu, per far fronte alla crisi, che hai fatto? Hai emesso liquidità. Quella liquidità è stata investita in una serie di bolle, fra cui bolle sulle materie prime alimentari, soprattutto i cereali. Nel frattempo è successo che, per una congiuntura, per la serie le sfighe non vengono mai da sole, quell'anno ci furono incendi devastanti in Russia, ci fu un'epidemia di un parassita che distrusse raccolti di buona parte dell'Africa fin verso poi l'Iran e il Pakistan, ci furono cattivi raccolti in Canada e in Francia, il risultato totale fu un rincaro, un picco inaudito dei prezzi dei cereali, che fu la miccia per la rivolta dei paesi del Medio Oriente, che iniziò come rivolta del couscous, perché l'improvviso, perché guardate per come funzionano i sistemi medio orientali, il prezzo politico dei generi alimentari, dei cereali, è il principale meccanismo di formazione del consenso. Saltato quello, c'erano già situazioni strutturali che in qualche modo andavano in quella direzione, ti è scoppiata la rivolta araba. Quindi in realtà quel shock petrolifero che tu temevi, che poi in parte è rientrato, non è stato un urto esterno, come se da Marte fosse partita una missione, è stato la fine del giro dell'azione che tu stesso hai promosso. E quindi, per esempio, questo è un elemento di fragilità del sistema che non c'era sicuramente nel 29. È uno degli aspetti. Il secondo aspetto, e concluderei qui, è il fatto che noi ci troviamo in un momento di passaggio di egemonia, di difficoltà, di costruzione dell'ordine mondiale. Noi abbiamo avuto un ordine egemonico nella storia in cui si sono avvicendati. Beh, abbiamo avuto il periodo dell'egemonia olandese, poi l'egemonia spagnola, poi l'egemonia inglese, poi abbiamo avuto l'egemonia americana, l'ordine mondiale diviso in due, bipolare. C'è stato il tentativo di costruire di nuovo un ordine mondiale su un'unica egemonia, quella americana, ma le guerre dell'Iraq e dell'Afghanistan, nonché la crisi economica, hanno spezzato questo disegno. Siamo nel momento in cui l'ordine egemonico disegnato, ipotizzato, è andato in crisi, ma non è morto del tutto. Gli Stati Uniti continuano a essere la maggiore potenza militare, la loro moneta continua a essere la moneta di riferimento internazionale, l'egemonia degli Stati Uniti su cose come le telecomunicazioni, il sistema satellitare o per esempio in termini culturali è ancora molto forte, ma non è più in grado di imporre questa egemonia alla propria volontà in ogni angolo di mondo e a qualsiasi costo. Nello stesso tempo le sfide all'egemonia americana sono ancora troppo deboli per sostituirla, ma abbastanza forti per impedirla, per impedirne il funzionamento. E all'ombra di questo grande scontro stanno covando una serie di tensioni molto forti. Certo che c'è il rischio di un nuovo conflitto generalizzato, ma non perché il percorso sarà lo stesso di quello del 29, grande crisi, recessione, depressione prolungata, guerra fra gli attori principali. No, qui il problema è un po' diverso, perché è vero che si sta profilando una depressione, però per esempio i maggiori pericoli di guerra non stanno emergendo all'interno dell'Occidente o fra l'Occidente e le potenze sfidanti. Vedete, la crisi iraniana sta attirando tutto, e in genere il Medio Oriente, sta assorbendo tutta la nostra attenzione. Se voi sfogliate i giornali vi rendete conto di quale e quanto spazio il Medio Oriente occupi fra crisi dell'Iran, guerra in Iraq e in Afghanistan, conflitto arabo-palestinese, rivolta in Siria, e sostanzialmente quel po' di pagine che i giornali italiani dedicano alla politica estera sono in gran parte assorbite, poi tutto il resto del mondo sta sullo sfondo. Nessuno sta prestando attenzione a quello che è il pericolo maggiore che si sta profilando, che è quello del blocco della triplice frontiera India-Cina-Pakistan e la sfida del potere marittimo fra Oceano Indiano e Oceano Pacifico, dove, ad esempio, fa effetto la notizia della portaerei cinese, la questione ci sciocca, eh? Però nessuno ha fatto caso al fatto che l'India di portaerei nel frattempo se ne è date tre. E se la Cina, che ha questa immagine di paese cattivo, di paese fondamentalmente aggressivo, in realtà nel sessantennio che c'è stato ha avuto soltanto una guerra con l'India, degli scontri circoscritti con l'Unione Sovietica, una guerra peraltro molto limitata col Vietnam, basta sostanzialmente. L'India invece ha avuto la bellezza di tre guerre col Pakistan, un intervento militare a Ceylon, una guerra con l'India, e in realtà è un paese piuttosto esposto al rischio bellico. Non solo, ma è passato del tutto inosservato il deterioramento forte delle relazioni fra Pakistan e India, sempre più pesante in una situazione nella quale, attenzione, sono tutte e due potenze nucleari quelle, eh? Ancora è passata inosservata la forte aggressività cinese sui mari. La Cina fino a 10 anni fa ci convinceva del fatto di non avere alcun interesse a un conflitto mondiale o a sfidare l'egemonia militare americana. A chi scriveva fra gli esperti di geopolitica americani che la Cina di oggi è l'equivalente della Germania Guglielmina che sfidava l'egemonia inglese, i cinesi rispondevano: ma no, non ci abbiamo nessuna intenzione, noi pratichiamo l'armonia, tutto sotto il cielo, era la formula, trasmettendo l'immagine di una grande forza tranquilla. Non è più l'immagine che la Cina sta lanciando di sé. Attenzione. Pensate agli scontri con la marina vietnamita degli ultimi tempi, agli urti con Brunei e Singapore per le isole Paracel, agli scontri col Giappone per le Senkaku. Pensate soprattutto, e poi il bello che in tutto questo c'è attenzione per tutto quello che fa rumore, passano del tutto inosservate cose molto meno rumorose ma molto più efficaci. Ad esempio, la portaerei cinese ci eccita. Poi però passa del tutto inosservato che la Cina ha prodotto nei suoi arsenali di Shanghai 100 trimarani. Cosa vuoi che siano i trimarani? Trimarani sono sorta di motoscafi, chiamiamoli così, a tre chiglie, due laterali e una centrale. Le due laterali sono profonde e servono a fendere le onde. Quella centrale è più bassa ed è arrotondata perché serve a cavalcarle. Che cosa succede? Che queste navi, questi motoscafi velocissimi, hanno un profilo molto basso, tale per cui sui radar non li vedi. O meglio, quando li vedi è troppo tardi, quando li vedi li senti, e quella è la cosa peggiore, anche perché hanno un armamento sufficientemente preoccupante per attaccare, non certamente portaerei o corazzate che peraltro non c'ha più nessuno, ma fregate, corvette e anche qualche incrociatore. Quindi non solo, e sono l'ideale per forze da sbarco. Cioè l'ideale, non la portaerei cinese, non serve per i vietnamiti o per Formosa o per il Giappone, le Senkaku o per Singapore. Quella, se è fatto strategico, serve alla protezione allargata delle coste cinesi, del Mar Cinese, rispetto alle grandi marine, a quella americana. Ma in realtà i trimarani sono quello che serve appunto per le marine dei paesi circonvicini, cioè è una proiezione immediatamente, quantomeno i cinesi vogliono far sapere di avere questi mezzi, di poterli usare. C'è un piccolo particolare che vi dà l'idea di come questi mezzi siano usati dalla Cina anche come potere di interdizione, di avvertimento. Tutte le unità di marina militare del mondo in genere sono numerate, hanno loro una specie di targa, per così intenderci. I trimarani non ce l'hanno e si calcola che ci sia un certo numero. Sapete da che cosa? Siccome sono chiazzati, avete mai visto voi i tendoni militari da campo che sono a macchie marroni, verdi, beige, ce l'avete presente? Beh, questi sono chiazzati in quella maniera di bianco, di nero e di blu, e un po' di grigio. Allora, dalla base del disegno delle macchie si è ricostruito più o meno che ci sono 100 pezzi, però in realtà se ci sono due imbarcazioni che hanno lo stesso disegno, noi non lo sappiamo. O se una imbarcazione cambia di disegno e magari le imbarcazioni sono 50 e non 100, noi non lo sappiamo. Questo è un modo attraverso cui i cinesi fanno sapere di avere una disponibilità senza che però tu possa misurarla realmente fino in fondo, senza sapere quanto. Sicuramente ti fanno sapere di avere un prodotto tecnologicamente molto avanzato. Ecco, tutto questo ti fa capire come si stanno aprendo una serie di partite militari totalmente diverse dal passato. Per cui se anche esiste un'ipotesi di conflitto, è però un conflitto di natura diversa. Per esempio avrà caratteristiche di guerra coperta. Gli attacchi cyber, gli attacchi batteriologici, il finanziamento di terrorismo, i patti con la malavita, la destabilizzazione finanziaria, gli attacchi ai sistemi satellitari, sono tutte operazioni che possono essere fatte come operazioni di intelligence coperte. Questo significa che un conflitto può esserci, forse addirittura già iniziato, in parte non ce ne siamo accorti, ma questa è ancora una differenza dal passato. E allora, tornando a noi, la descrizione che vi ho fatto, forse un po' troppo lunga, vi dice perché il meccanismo di un paradigma storico fortemente specialistico, fortemente parcellizzato, che isola l'aspetto politico da quello militare, l'aspetto politico e militare da quello economico, tutti e tre dall'aspetto della politica internazionale e tutto dalla storia sociale, tanto per cominciare non funziona più. Perché in realtà uno dei meccanismi della globalizzazione è la rapidità con la quale passi dal piano economico al piano politico, al piano finanziario, al piano militare, al piano sociale, eccetera, eccetera, eccetera. Il mondo si è fatto più stretto, il nostro tempo è il tempo dello spazio stretto e ragiona in termini diversi. Noi dobbiamo ragionare in termini diversi per capire il nostro mondo. Da questo punto di vista non ti serve tanto l'analogia quanto la comparazione, perché probabilmente è più la differenza che la similitudine a spiegarti le specificità del tuo tempo e le tendenze che comporta. Ancora, non è più tanto il metro di valutazione morale quello che ti serve a capire cosa accade, quanto piuttosto una capacità analitica di comprensione complessiva, dopodiché problemi di ordine morale ci sono, ma si affrontano in una sede diversa. Non abbiamo più il bisogno e l'utilità di giudicare moralmente, quanto quello di capire le tendenze in atto. Poi faremo tutte le scelte che volete, ma intanto dobbiamo capire e spiegare che sta succedendo. Per fare questo abbiamo bisogno di un modello storiografico diverso. E la sfida è questa. La globalizzazione pone una serie infinita di problemi. Pensate per esempio a una cosa, al problema della traduzione dei concetti da una cultura all'altra. Sì, lo so che la parola nazione la posso tradurre come nation, come volete voi, ma non è una questione di vocabolario. Nazione lo diciamo noi, lo dicono i cinesi, lo dicono gli indiani, lo dicono gli islamici. Siamo sicuri di dire la stessa cosa? Siamo sicuri che il contenuto è lo stesso? Esiste per esempio un problema di traducibilità delle nostre tradizioni storiografiche. Se la sfida è quella di fare una storia mondiale, dobbiamo trovare la lingua della storia mondiale, che non può essere l'europeo o l'euroamericano. Dobbiamo trovare una lingua, non dico una sorta di lingua franca in cui comunicare fra diversi. Abbiamo bisogno di interpretare, di trasferire concetti diversi. Abbiamo bisogno di trattare il materiale, le informazioni, con procedure e trattamenti molto più sofisticati del passato. Di qui il fatto che noi siamo probabilmente alle soglie di una grande sfida storiografica. Noi siamo al tramonto di una storiografia, non è ancora iniziata però l'alba di una nuova storiografia, che è il terreno sul quale però siamo chiamati a confrontarci. Noi dobbiamo costruire quest'idea di storia mondiale e dobbiamo costruirla nel mondo della globalizzazione, che non è solo mondializzazione, è appunto complessività dei problemi, quindi superando quegli approcci specialistici, superando la parcellizzazione del sapere, costruendo il sapere storico sì come specialismo, ma come specialismo trasversale agli altri specialismi. Dopodiché, quello che vi ho detto probabilmente è più facile a dirsi che a farsi, probabilmente ho anche messo molta carne al fuoco, però vediamo se discutendo almeno qualche singolo aspetto riusciamo ad acchiarirlo ed ad approfondirlo. Grazie.